Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con la sua posizione al centro del mare Mediterraneo, l'Italia è un paese che basa parte della sua economia sui porti, attraverso i quali transita infatti il 55% delle merci. Nel 2019 gli scali nazionali hanno movimentato circa 400 milioni di tonnellate, ma la crisi sanitaria ancora in corso ha colpito il segmento con ripercussioni che hanno già iniziato a farsi sentire. Per questo, governo e istituzioni europee hanno lanciato programmi e iniziative che prevedono strumenti finanziari per far fronte all'emergenza, per investire nelle infrastrutture e per consentire il rilancio del settore. Fra questi c'è anche Italia Veloce, il piano di interventi su 130 opere prioritarie che punta anche all'aumento della capacità portuale e a un miglioramento dell'accessibilità marittima. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ci occupiamo oggi, come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, di porti, un mondo importante per la nostra economia. Dai porti italiani transitano il 55% delle nostre merci. Nel 2019 gli scali nazionali hanno movimentato circa 400 milioni di tonnellate di beni, eppure anche questo settore, ovviamente come tutti gli altri, ha risentito degli effetti del lockdown. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione in compagnia del nostro ospite, che è Daniele Rossi, presidente di Assoporti. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e grazie per l'attenzione ai porti italiani. Beh, un'attenzione meritata, visto che molto spesso sono sottovalutati, ma vista anche la conformazione del nostro paese, rappresentano un punto di accesso importante per le merci e per le persone. Qual è la situazione dei porti italiani oggi, a metà 2020? Guardi, io mi permetto solo di dire che non credo sia sottovalutata l'importanza dei nostri porti. Penso piuttosto che non sia conosciuta, che forse è ancora peggio. Come diceva lei, transitano nei porti italiani 2019 479 milioni di tonnellate di merci, che corrispondono a 250 miliardi di euro di valore. Quindi questa è la dimensione di quello di cui stiamo parlando. La situazione oggi purtroppo è drammaticamente seria. I porti italiani, ma i sistemi portuali nel mondo non vivono di un'economia propria, sono il termometro dell'andamento dell'economia nel paese, sono il termometro che ci dice cosa sta succedendo nella produzione, nel consumo, e oggi questo termometro, ahimè, segna una febbre altissima, perché le stime che noi abbiamo fatto recentemente, a mezzo della situazione emergenziale, quindi con una conoscenza relativa ma abbastanza buona degli effetti che stava producendo, parlano di una perdita di tonnellate stimata nel 2020 sui porti italiani di qualcosa tra gli 80 e i 90 milioni di tonnellate. Questo significa che nel sistema di import-export, se nello scenario migliore che è quello di una perdita in termini percentuali del circa il 25%, vuol dire minori volumi per circa 42 miliardi di euro. Però c'è anche uno scenario pessimistico, quello che si attesta intorno a una perdita fra il 33 e il 35% di import-export, che vuol dire in termini di economici e quindi poi in termini di PIL una perdita di 63 miliardi di euro. E tutto questo è l'impatto sull'economia, ma qual è l'impatto di tutta questa situazione sull'economia portuale, quindi sulle realtà portuali italiane? Guardi, sulle realtà portuali italiane devo dire che il decreto 34, che viene secondo me impropriamente chiamato decreto rilancio, io lo chiamerei piuttosto decreto emergenza, è intervenuto in modo ragionevole per mitigare gli effetti sui lavoratori. sulle persone. Quindi direi che su quello nell'immediato c'è stata un'attenzione che ha un po' allontanato il problema. Diverso per le imprese dove il fatto di comunque gli interventi pur apprezzabili che sono stati fatti sono interventi di tipo emergenziale, l'impresa ha bisogno di una stabilità economica complessiva del sistema per avere una prospettiva, per avere un'idea di continuazione, di sviluppo. Ecco, lì l'impatto è molto forte anche sui terminal portuali. Devo dire che ci sono diverse situazioni critiche che nel sistema portuale sono un po' temperate dal fatto che lo spazio in porto, lo spazio fisico in porto è così poco, è così limitato che nessuna impresa cioè prima di abbandonarlo deve proprio insomma vendicare la pelle praticamente esattamente qui non si tratta di chiudere un negozio in una via e riaprirlo fra sei mesi in un'altra via, qui lo spazio una volta che l'hai perso non lo recuperi più insomma e quindi questo tiene in vita, tiene in forza anche chi sta subendo dei contraccolpi molto significativi perché ha ancora un barlume di speranza di riguadagnare una ragionevole normalità nel corso del prossimo anno. Ecco, a proposito degli spazi, questo è un tema, voglio dire, storico per quanto riguarda i porti italiani, molto spesso incastonati all'interno delle città. Abbiamo dei porti magnifici a Genova, a Napoli, che però hanno delle difficoltà operative importanti, tant'è vero che poi si sono creati degli interporti, delle zone di stoccaggio lontane anche varie decine di chilometri. Ma il problema degli spazi come deve essere gestito all'interno dei porti italiani? Deve essere gestito in un sistema di ragionevole concorrenza, di ragionevole competizione, deve essere messo a disposizione degli operatori in modo equanime, ma tenendo sempre presente quello che è l'interesse pubblico. Quindi una grande attenzione in tutti i progetti di investimento, in tutti i progetti dove c'è una richiesta di concessione demaniale per spazi in ambito portuale, sempre di più dovrà fare attenzione, dovrà valutare gli aspetti di interesse pubblico, gli aspetti di sostenibilità ambientale, altra cosa estremamente importante in ambito portuale dove la concentrazione di navi, di camion genera ovviamente delle situazioni ambientali complesse. Ecco, sempre di più secondo me dovrà essere gestito con questa logica, quindi minore attenzione al margine di profitto, alla redditività, ma sempre più attenzione all'impatto sociale, quindi a quei progetti che garantiscono una maggior tutela del lavoro, delle persone e ovviamente dell'impatto ambientale. Certo. Negli anni scorsi abbiamo visto una trasformazione amministrativa importante dei porti italiani, dalle varie autorità portuali siamo passati a delle autorità di sistema, un processo che ci ha messo un po' per carburare ma che adesso è perfettamente funzionante. Qual è il giudizio di Assoporti su questa nuova riconfigurazione amministrativa che ormai è perfettamente operativa, credo? Diciamo che siamo sulla strada di un completamento di una piena implementazione della riforma, l'aggiornamento insomma, della legge 84 e quindi tutte queste nuove disposizioni che così significativamente hanno cambiato la portualità italiana. Già il ridimensionamento delle autorità portuali che oggi sono 16 sistemi portuali che gestiscono 53 porti di interesse nazionale, già questa è stata una rivoluzione importante l'implementazione progressiva, la piena efficienza la si sta vedendo ora e la si vedrà andando avanti. Ci sono degli aspetti della riforma che ancora necessitano di un po' di manutenzione, che necessitano di una piena implementazione, ma sostanzialmente la riforma cosa ha fatto? Ha spostato l'autonomia decisionale dalla periferia verso il centro. Il tavolo di coordinamento delle autorità portuali, presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è il luogo dove si prendono le vere grandi decisioni sulla portualità italiana. Ecco, e quello secondo me è stata un'operazione molto utile, molto intelligente, perché ha creato quel centro di coordinamento degli investimenti, dell'infrastrutturazione, che porterà ad evitare sempre di più, a razionalizzare, a ottimizzare i porti, a evitare duplicazioni di investimenti. Gli investimenti nei porti costano centinaia di milioni, farne due uguali a porti a qualche centinaio di... Non aveva senso, e non ha senso ovviamente. Aveva senso. Prima, col sistema di prima, prima della riforma del Rio, questo era possibile perché ogni porto aveva la sua autonomia. Autonomia. Oggi c'è un coordinamento centrale, credo che sia un'intuizione molto apprezzabile. Deve trovare ancora una piena attuazione, come tutte le grandi riforme, ha bisogno di tempo. Certo. E qui è una grande riforma. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Daniele Rossi, presidente di Assoporti. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.